La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Direi che con questa malattia io ho scoperto tante cose, un modo diverso di vivere. Tanti ragazzi e tante persone che ho guadagnato come amicizia. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma vie n'était qu'ennui. Una vita può ricominciare infinite volte. E questa la morale della storia di questa sera. L'ospite è Uberto Rasini. Un uomo colpito da un tumore che lo costringe sulla sedia a rotelle, ma che ne potenzia il sogno. E il sogno di Uberto è andare in barca a vela. Un sogno che, come vedrete, Uberto renderà contagioso. Allora, Uberto Rasini, incominciamo l'intervista. Intanto, benvenuto alla prima volta, ci diamo del tu. Ti ho chiamato perché mi avevano segnalato questo tuo progetto, il progetto collegato alla barca vela che si chiama Capita. Ci spieghi perché hai deciso di chiamare Capita la tua barca vela? Insomma, partiamo proprio da qui in questa intervista. Ma dunque, perché mi è capitato di leggere nella mia, quando sono diventato così paraplegico, bellissimo libro di Gina Lagorio, una scrittrice ottantenne a cui è venuto un ictus a un certo punto, ha sempre fatto una vita molto attiva e cose, eccetera, gli è venuto un ictus e racconta tutto il suo iter ricovero al rapporto con i medici, gli infermieri, gli amici, i parenti e tutto quanto. Ed è un libro fantastico in cui lei riesce a rendere l'idea di come ti trovi a un certo punto a dipendere dagli altri e come ti cambia di colpo la vita da un giorno con l'altro per questa malattia che ti viene. E quindi mi è piaciuto talmente tanto, l'ho riletto talmente tante volte che mi è venuto naturale a un certo punto, dovendo dare un nome alla barca che comunque era testimone di una mia svolta anche per me. Da un giorno con l'altro sono rimasto fermo e quindi è venuto da lì il nome, ecco, quindi il titolo di un libro. Mi è venuto un tumore, una neoplasia proprio nel midollo e quindi sì, mi hanno operato ma non si poteva togliere e quindi pian pianino questo avanza lungo il midollo e mi ha cambiato la vita di colpo a un certo punto perché non c'era più modo di camminare. Poi pian pianino adesso sta peggiorando anche nelle altre funzioni, quindi non parliamo della mia cosa. In realtà secondo me invece è proprio partire da qui per capire di che pasta sei fatto, perché proprio la barca vela Capita è il simbolo di chi sei, no? Ci racconti come funziona questa barca, ad esempio? Ma questa barca è nata perché io avevo già una barca vela, una Starcat di Vallicelli, in cui mi calavano dentro con una gru. Da lì, che era un traffico infernale, tutta la volta che volevo uscire, mi veniva sempre l'idea di avere una barca accessibile, insomma, in cui io potessi salire più comodamente. Soprattutto poter andare da solo, questa era la mia fissa, e poter salire con comodità con la mia sedia, e non riuscivo a trovare niente sul mercato che potesse aiutarmi in questo, per cui ho deciso cercherò di qualcheduno che me ne faccia una. E ce l'hai fatta? Sì, diciamo che ce l'ho fatta, tranne il fatto che insomma non è vero che puoi fare tutto, primo che non puoi fare tutto da solo, perché appunto ti dico è imprudente tutto il resto, e due sì, è vero, possiamo andare in 4-5 sulla sedia a rotelle, però non è che possiamo girellare per la barca impunemente. Per te l'idea di rinunciare alla vela era qualcosa di impensabile? È vitale andare in vela per te? Sì, lo vedevo come un obiettivo importante, sì. Ecco, poter fare qualche cosa che in qualche modo avevo sempre fatto e poter tornare a farlo, ecco, in qualche maniera. Quindi è stato come per sciare, quando ho cominciato a sciare così con gli altri ragazzi paraplegici, non avrei mai pensato di poter risalire in montagna, in alto. A me piace molto la montagna anche, quindi è stata un'opzione molto simile, ecco, quindi di poter riprovare certe sensazioni pur essendo poi messo in condizioni così di non poter camminare, di non poter fare diverse cose, ecco, quindi guidare si guida oggi con anche così, però altre cose non pensavo di poterle fare, quindi l'emozione è stata veramente molto grande. Dopo l'abbiamo portata al mare, poter andare anche al mare, no, anche Cervi al mare, era un olio per dire, una cosa penosa, una tavola, è stato penoso, cosa, però emozionante lo stesso, quindi uscire così con anche col vento, quindi con la barca sbandata, con tutto così, era veramente una grande emozione. E anche i tuoi figli erano emozionati la prima volta che sono venuti con te? Sì, tutti. Sì, sì, moltissimo, sì. Anzi non hanno mai avuto una grande, non mi hanno mai seguito molto nella vela, e invece con questa barca qui erano contenti di uscire insieme a me, insomma, vedevano in me di nuovo in qualche modo più attivo, ecco, mi vedevano, non lo so, comunque gli è scattato qualche cosa anche a loro, piace anche a loro, vengono volentieri, e quindi che per me è stato bello anche questo, perché prima quando uscivo con la barca che avevo prima non mi filavano neanche di striscio. È proprio un progetto di vita, nel senso che ha permesso di rincontrare anche i tuoi ragazzi, insomma, attraverso questo viaggio. Sì, questo e anche l'amicizia con questi ragazzi che mi hanno aiutato, con Francesco, con Luigi, con cosa, ragazzi più giovani di me, come quelli che sciavano con me, tutti i ragazzi di 10-15 anni più giovani di me. Infatti anche mia moglie mi dice: ma tu cosa fai, cosa tuffi questi ragazzi qui che sono più giovani di te, eccetera. Ma loro mi chiamano, ci troviamo bene volentieri insieme, perché non dovrei farlo, ecco, da questo punto di vista. Nel frattempo però la cosa negativa era questa, poi intanto che ho progettato, ho fatto fare la barca e tutto, la mia condizione, diciamo, di salute peggiorava e sta peggiorando, e quindi è diventata una necessità proprio avere un equipaggio a bordo insieme a me, perché determinate cose non riesco più a farle bene, insomma, per cui ho una presa delle mani molto, molto debole. Anche cazzare le cime così per me è un po' difficile. Timonare, riesco a timonare ancora bene, alcune manovre riesco a farle, ho assolutamente bisogno di aiuto in questo, ecco, questo è stato un po' vabbè, pazienza, finché dura vai. Esatto, questa è un po' la cosa, ma tutta la mia condizione è stata una scoperta di una nuova vita, è diversa e non così peggio di quella di prima, ecco, anzi direi che con questa malattia io ho scoperto tante cose, un modo diverso di vivere, tanti ragazzi taxi e tante persone che ho guadagnato come amicizia, che magari qualcuno l'ho perso di amico, perché sai, la gente ti guarda, non sa bene come porsi nei tuoi confronti. E quindi no, ma perché c'è ancora molta ipocrisia su questo tema, no? Cioè, da una parte, perché secondo te? Ci sono vari perché non so, io credo non è né cattiveria né indifferenza, ma paura, in qualche modo non sanno bene come rapportarsi con te, vedono di più la carrozzella e il fatto che tu non puoi camminare, che non la tua persona, sono ancora io. Dico, io spesso dico, guardate che non mi funzionano le gambe, ma il cervello mi funziona ancora, ecco. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. La prima volta. Quella di Umberto Rasini è la storia di un uomo colpito da un tumore che lo costringe su una sedia a rotelle e del suo sogno, quello della barca a vela. Una prima volta che, come sentirete, ha lo sguardo di un uomo intelligente, aperto agli altri, anche mentre gli altri, di fronte alla sua malattia, reagiscono magari chiudendosi e allontanandosi. Da quello che appunto ti vede ancora o ti vede per la prima volta così come sei, indipendentemente dal fatto che cammini o meno, e ci sono quelli che invece erano abituati a te in un'altra maniera e non riescono a superare il fatto che tu sei hai bisogno di aiuto, ecco, e quindi si concentrano più sullo spingere la carrozzella che non sul chiacchierare di cose interessanti o fare cose più belle, insomma. E poi secondo me c'è anche, insomma, nelle vite ci sono anche dei momenti in cui alcuni amici vanno e ne arrivano altri, insomma è anche abbastanza fisiologico, no? Nella vita di ciascuno di noi. Sì, normalmente, esatto, da questo. Esatto. Di più se tu cambi, almeno dal punto di vista funzionale ed estetico. Per cui da questo punto di vista non rimpiango niente, anzi, io non ho nostalgia di quando ero normale, dirò francamente, normale, normodotato. Ho quasi più nostalgia dei primi anni. Io sono 6 anni che sono in carrozzella, quindi non è tanto, però ho più nostalgia dei primi anni che ero in carrozzella, in cui riuscivo a far di tutto, comunque, dal appunto sciare, andare in moto, perché mi sono procurato una di queste moto a 3 ruote fatte sulla Harley Davidson, eccetera, e girellavo con questa roba, però aveva un'autonomia e ero contento di riuscire a fare tante cose anche se ero in carrozzella. Più nostalgia di quel primo periodo di 2-3 anni che non di quando ero normodotato, perché comunque è una nuova vita che mi ha fatto conoscere gente nuova e un modo di vivere diverso, e ho guardato anche il mondo, la città, il modo in cui ti muovi in modo diverso, ecco. Quindi è stato un cambiamento. cambiamento radicale, ma non così negativo. È più duretta adesso che diventi veramente... hai dei problemi un po' più grossi, ecco. Però non mi fermo. No, infatti mi dicevano che adesso il progetto, il nuovo progetto è quello dell'associazione, che è già nata o sta per nascere? Raccontami un po'. Dunque, no, l'associazione è in via di costituzione proprio, questa di associazione sportiva dilettantistica, con la quale vorrei fare una collaborazione con cui abbiamo già parlato, con la Dinamo Camp, che è un'associazione molto grande, internazionale, e che si occupa di ragazzi dai 6 ai 17 anni con problemi o di salute o di, appunto, di mobilità e tutto, e poter dargli degli appuntamenti nell'anno in cui mi portano questi ragazzi, usciamo insieme. È una cosa che mi entusiasma, insomma, è quasi lo scopo non dichiarato e nascosto di Capita, insomma, sì, l'ho fatta per me, però poter godere insieme degli altri ragazzi di questa emozione è sicuramente, mi sono accorto che ce l'avevo dentro, ecco, come scopo, come cosa, quindi mi piace molto, ecco, questa idea, non vedo l'ora di metterla in pratica con la bella stagione, ecco. Quindi adesso tempo 15 giorni, l'associazione è costituita e devi avere una forma di questo tipo per poter avere delle collaborazioni con queste associazioni, magari internazionali, ne ho conosciute alcune anche americane attraverso l'Andrea Stella, con cui ho comunque fatto una collaborazione in questi primi mesi dell'anno per dargli una mano a fare questo progetto suo di portare la carta dei disabili dall'ONU al Papa, sul suo catamarano, lo Spirito di Stella, partirà ad aprile da Miami e attraverserà l'Atlantico, farà tutto il Mediterraneo per arrivare verso giugno, luglio dell'anno venturo in Vaticano per portare questa carta della pace. Dovevo essere anch'io tra l'equipaggio, non ho un'autonomia sufficiente per poter, almeno credo di non avere un'autonomia sufficiente per poter affrontare questo viaggio, ecco. Per cui, però lo stesso, collaborare a far sì che Andrea riesca a fare questo progetto e quindi far luce sulla carta dei disabili, che nessuno conosce, neanche io conoscevo, è stata promulgata poi nel 2006 e è sottoscritta da 140 paesi nel mondo, quindi è una cosa importante. Ed è uno strumento importantissimo per noi, perché questa carta ti consente, per dire, una strada non puoi attraversarla perché sei in carrozzina, attraverso questa carta per legge un giudice può decidere: no, lui deve passare, togliete qualsiasi impedimento, ecco, tanto per dire quanto può essere utile. È molto utile, poi vabbè, bisogna anche applicarla. Bisogna sì, far sì che sia applicata, sì. Ma bisogna farla conoscere a tutti, a normodotati e gente, sì, come noi che non la conosce, ecco, quindi questa è una roba, è un primo avvicinamento anche a gente con i miei problemi, ecco. Dopodiché trasferire tutto su un progetto mio mi è piaciuto molto, ecco, quindi, e mi piacerà, credo, molto. Poi ho trovato appunto questi ragazzi, questi amici che mi danno una mano volentieri a fare questa cosa, quindi, che cominceremo quest'anno, e quindi porteremo la barca in due o tre posti al mare, e appunto la Dinamo Camp mi ha promesso di mettermi nel calendario del loro programma per poter dare a questi ragazzi un momento di gioia, insomma, un'emozione, un'esperienza che magari non potrebbero avere diversamente, magari anche appunto collaborando nel governare la barca, che non è poco. Un conto essere solo trasportati, un conto poter fare qualcosa in barca. Tonight I'm gonna have myself a real good time. La prima volta finisce qui. Venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook Radio 24 La Prima Volta, scriveteci e riascoltateci. Intanto buonanotte e buon inizio di settimana. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. Good time, I'm having a ball.